Fra il febbraio e il settembre del 1908 Lenin scrive Materialismo ed Empirio Criticismo. Per scriverlo si trasferisce anche a Londra, ove può usufruire di una biblioteca meglio fornita. Materialismo ed Empirio Criticismo verrà a costituire la base fondamentale per il dibattito politico di molti anni a seguire. E in quell'opera Lenin se la prendeva con il filosofo Édouard Leroy, con Henri Poincaré, che nel 1905 era arrivato ad una formulazione della teoria della relatività ristretta in concomitanza con Einstein, e soprattutto se la prendeva con Ernst Mach e Richard Avenarius, colpevolissimi teorici, a suo parere, di quel che allora veniva chiamato empirio-criticismo. Tuttavia, Screditando costoro, Lenin intendeva gettare abbondanti palate di fango su tutto un gruppetto di suoi conoscenti più stretti. In particolar modo ce l'aveva su con Bogdanov, con Bazarov, con Axelrod, con Juskevich e con Lunacharsky, con coloro cioè che in varia misura rappresentarono la sinistra bolscevica. I termini del dibattito erano rigorosamente epistemologici, diciamo. Si trattava di decidere se al mondo si può conseguire certezze assolute e se la scienza, o meglio il materialismo storico marx-engeliano, che ne vuole essere della scienza la massima e più completa espressione, sia davvero lo strumento più idoneo per conseguire tali certezze. L'esame concerneva allora la fisica teorica nel suo sviluppo storico, la biologia e altre scienze importanti, fra cui la geologia, che a Lenin piaceva tirare in ballo a mo' di esempio. Lenin, molto in sintesi, sosteneva la tesi che il pensiero umano è capace di raggiungere la verità assoluta. Sosteneva che sarebbe stata formata questa verità assoluta dalla somma delle verità relative e che comunque ad ogni ideologia scientifica corrisponde una verità obiettiva, una natura assoluta, sono parole sue. Bogdanov e compagni sostenevano invece che la cosiddetta oggettività non è altro che il risultato e l'espressione dell'organizzazione sociale dell'esperienza fisica, della sua coordinazione collettiva. Le leggi fisiche, per Bogdanov, non sono date belle pronte nell'esperienza, ma vengono elaborate dalla conoscenza come mezzo per organizzarla, per coordinarla in un'unità ben costruita. Diciamo che costoro erano insomma dei relativisti, ecco. Lenin copriva Bogdanov e soci di insulti sanguinosi e soprattutto tendeva a scomunicarli all'interno del movimento marxista. Costoro rispondevano che l'assolutismo era la classica forma di ogni pensiero autoritario e che dunque era Lenin che non aveva nulla a che fare con il marxismo. Il dibattito da cui comunque dipendeva la qualità della vita futura di milioni di persone, il dibattito è andato avanti per anni e com'è finito lo sapete tutti. Axelrod, a rivoluzione avvenuta, se la dovette filare alla svelta da quell'Unione Sovietica per cui aveva tanto combattuto. Lunacharsky, con qualche correzione di rotta, divenne commissario del popolo per l'istruzione e visse fino al 1933. Bogdanov venne espulso dal partito e tuttavia resistette fino al 1928, quando, essendo medico, si offrì o fu offerto come cavia per un esperimento mai ben chiarito, dove ci lasciò le penne. La sinistra bolscevica, in quanto tale, comunque sparì dalla faccia della terra. Lenin, ben inteso, aveva torto, ma se mi permette il calambur, non aveva tutti i torti. È vero che il relativismo e lo scetticismo in genere vanno sconfitti in una prospettiva rivoluzionaria che voglia liberare l'uomo dalle sue storiche catene, ma è anche vero che la strada del suo dogmatismo assolutistico assomiglia davvero a quella già intrapresa dal cattolicesimo e conduce a triste mete. Il realismo non regge, se non nella forma di un'autorità che decreta cosa sia o non sia reale, cosa sia o non sia vero, il che per l'appunto è quel che hanno sempre fatto le religioni, imprese che a proposito di liberazione dell'uomo han più a che fare con catene e lucchetti che non con martelli, grimaldelli e cesoie. Il caso di Lenin e della sinistra bolscevica comunque è un caso di dibattito politico all'inizio del secolo, un dibattito che ha infuocato l'intera Europa. Oggi, al confronto, ecco, i dibattiti politici sono cambiati, diciamo radicalmente cambiati. Oggi nel nostro paese a discutere sono personaggi della statura di un buttiglione, ecco, che se si dice filosofo lui, figuriamoci gli altri. Ve li immaginate un dibattito epistemologico fra l'onorevole Teodoro Buontempo al Secolo d'Italia, er pecora, e il sinistro ministro Previti, ecco. O Berlusconi, non so, che Berlusconi che getta le basi della sua visione del mondo affrontando i fondamenti della fisica quantistica, della biologia molecolare. Beh, pure se uno come Scognamiglio scrivesse un saggio sull'empiriomonismo, ecco, sarebbe comprato come un libro umoristico dalla gravità goliardica. Il fatto stesso che un programma politico debba per forza di cose discendere da alcune assunzioni sul mondo, sul posto dell'uomo in questo mondo, sulle sue assunzioni di responsabilità e sulle sue idee in merito alla società e al miglior modo perché questa funzioni, è drammaticamente ignorato in qualsiasi discussione politica cui siamo costretti ad assistere. Ma non perché, come ama dire qualcuno di questi mentecatti, sono morte e sepolte le ideologie, ma perché sono morti e sepolti in tanti modi, coloro che le ideologie sapevano analizzare o elaborare e proporre al vaglio degli eventi storici in atto. Di che discute? Di che discute oggi Buttiglione passando celermente da una sagrestia all'altra? Del rapporto, che so, insanabilmente conflittuale fra cristianesimo e liberalismo, della definizione del vivente, della natura, della conoscenza e delle scienze, degli elementi costitutivi della morale sociale, del fine e il senso della storia. Ma va là. Legge elettorale del maggioritario alla mano e calcolatrice nell'altra, Buttiglione fa i conti. Calcola i posti sempre più numerosi che toccano alla nuova Democrazia Cristiana in quel Parlamento da cui era stata cacciata. Nel frattempo, in cuor suo, ringrazia quella sinistra che, se non ha avuto alcun merito nella cacciata, ne ha tuttavia benevolmente favorito il ritorno. Chi volesse sapere qualcosa di più sulla sinistra bolscevica, potrei almeno consigliare un paio di letture, che so, Scienza e Fede, un volumetto che raccoglie saggi di Bogdanov e compagni, pubblicato da Einaudi prudentemente nel 1982, nonché il saggio di Jutta Scherer, Bogdanov e Lenin, il bolscevismo al bivio, contenuto nel secondo volume della Storia del marxismo, pubblicata sempre da Einaudi nel 1979. A chi volesse sapere qualcosa di più sulla Weltanschauung di Previti o di Previti e di er pecora, consiglierei invece di lasciar perdere. L'encefalogramma delle bibliografie della Seconda Repubblica è ancora piatto.